Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto da Francesco Galante, ma un saluto al presidente Carlo Garofolini, che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. La notizia è della settimana scorsa, ma credo che ci sia ancora poca chiarezza, no? E quindi è bene che noi la facciamo, questa chiarezza, sul canone della RAI. La tassa che molti italiani odiano in assoluto, perché poi qua nel nord-est ci sono dei televisori che per esempio la RAI la vedono col binocolo, come si dice, cioè non la vedono proprio. Sì, parliamo del canone RAI, anche perché siamo alla vigilia di una riforma che sarà quella che andrà a prevedere il pagamento del canone su 5 rate da 16 euro inserite nella bolletta elettrica, però parliamo anche di un'indagine che ha fatto l'Adico qualche giorno fa nel Veneto, dove è andata a chiedere a circa 250 iscritti quali tasse odiano di più pagare. E dobbiamo dire, probabilmente anche in virtù del fatto che in questo periodo se ne sta parlando molto, il canone ha superato di 2 punti percentuale la tassa sulla prima casa. Al terzo posto, ma sempre nella testa della classifica, sono risultati i ticket sanitari. Anche quelli, leggevo proprio oggi o ieri sui giornali, insomma, che qualcuno ha fatto un'indagine e si è visto che ci sono le visite private con alcuni esami medici che costano meno farle privatamente che non pagando il ticket. E anche qui, insomma, ci sarebbe molto da parlare. Sì, purtroppo è una vergogna, perché siamo in una fase di rivoluzione del canone, ma anche una rivoluzione della medicina, della prevenzione, un aumento di costi a carico dell'utente, un aumento di tagli, e quindi le persone si troveranno a poter fare meno prevenzione e a pagare di più quelli che sono i ticket un indomani, diciamo il prossimo anno. Ma nell'immediato, tornando al canone, a sorpresa anche noi, come questa è la tassa pagata più mal volentieri, di circa 32% contro il 28% la tassa sulla prima casa e il 26% ticket sanitari, come detto. Però ricordiamo anche che tra i motivi per cui le persone hanno detto di odiare di più questa tassa rispetto a molte altre, anche per la qualità dei servizi, non solo del segnale, trovare interruzioni, continue interruzioni nelle trasmissioni dei dati, ma soprattutto perché è un'attività vedersi recapitare il pagamento di un canone perché utilizzi una connessione internet, quindi hai uno strumento atto a poter andare a collegare sui loro siti, eccetera, certamente hanno fatto crescere quello che è un malessere nei confronti di questa tassa. Ecco, una tassa che appunto molti odiano, questa volta mi sa che non si riuscirà tanto a scappare. Non si riuscirà a scappare, ma ci saranno anche molti altri problemi legati a chi realmente non dovrà pagarla per motivi, non hanno internet o non hanno gli apparecchi televisivi, perché magari non sono più proprietari di prima casa, ma si troveranno, non potranno più beneficiare del pagamento automatico in banca, ma dover pagare direttamente allo sportello delle poste, perché in automatico ci sarà l'addebito del canone. Quindi certamente si farà molta fatica a non riuscire a pagarla come una volta. Però è anche vero che i famosi 113 euro che oggi sono diventati 100, certamente risulta ancora un importo molto elevato a carico dell'utente rispetto a un servizio che qualitativamente lascia molto ancora a desiderare. Sì, anche perché lo ricordiamo, quando guardi un programma RAI comunque ti devi guardare per forza anche tutta la pubblicità in mezzo al programma. Pubblicità, sponsor, in continue interruzioni, contratti milionari, quindi tante condizioni che sicuramente non mettono in buona luce questi canali televisivi. Certamente è una scelta che l'utente poi non può decidere di non fare, perché il pagamento del canone è una tassa alla quale viene imposta e di cui troviamo anche ingiusto che chi oltretutto non ha la televisione deve pagare perché magari possiede una connessione internet. Quindi non troviamo neanche giusto che per esempio un'attività commerciale o un utente che abbia internet si precluda il fatto che si pensi che questo qua possa collegarsi al loro sito e guardarsi i programmi. Non è questo un ragionamento logico per il quale richiede una tassa che insomma la dice lunga su quello che è insomma, il giudizio di gradimento degli utenti. Carlo, ho letto che se uno non vuole pagarla, perché ovviamente non deve pagarla, deve comunque andare a scorporare i soldi e pagarla appunto con un bollettino postale e non usufruire del RID, dell'automatismo della banca. Sì, anche qua, come ho detto, è indecente la gestione, perché appunto l'utente non potrà più beneficiare dell'addebito automatico in banca, ma se rientra nelle condizioni di non poterla pagare dovrà farlo diciamo manualmente, e anche qui capiamo come questo servizio va contro a quello che può essere un sistema di semplificazione. Qua le cose sono fatte, i giochi sono fatti, quindi di sicuro questo è il nostro futuro. Sì. Di sicuro questo sarà il futuro. Noi abbiamo continuato a sollevare le nostre perplessità. Da prima riteniamo ingiusto che la RAI chieda il canone alle attività commerciali, perché dobbiamo cominciare a ragionare che chi lavora e ha dei computer dedicati a svolgere un lavoro non certamente ci guarda i film nella RAI. Anche questa è un'osservazione che hai ripetuto ed è giusto che sia così. Chissà che insomma in qualche modo unendo le forze tra le varie associazioni dei consumatori si possa fare leva anche su questa cosa. Grazie quindi al presidente Carlo Garofolini, che ritroveremo fra qualche giorno per una nuova puntata insieme. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.